Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Queste note vi suoneranno certamente familiari. Sono quelle di uno dei pezzi pop più celebri degli anni 90 e non solo. Nel 2005, a ben 10 anni dalla sua pubblicazione, un nutrito gruppo di ascoltatori inglesi l'ha eletta Best British Song of All Time. E un anno più tardi, evidentemente in preda a un raptus di invidia, il bassista degli U2 The Edge ha confessato che proprio questa è una di quelle canzoni che vorrebbe tanto avere scritto lui. E invece questo pezzo, che si intitola Wonderwall, l'ha scritto nel 1995 un giovanotto che di nome faceva e fa Noel Gallagher, un ragazzo che giusto una manciata di anni prima pensava tutto fuorché a fare il musicista. Prima di fare questo mestiere? Beh, ero lo stronzo che svuotava gli acquari. Poi ho lavorato in una panetteria. Poi sono andato in giro a fare affissioni pubblicitarie. Poi ho fatto il bracciante agricolo, ho lavorato in una tintoria a secco. Dimmi un cazzo di lavoro e stai sicuro che l'ho fatto. L'ho fatto perché era la sola cosa che potevo fare. Lo facevo per soldi e perché era la cosa giusta, punto. Perché avrei mai dovuto aspirare ad essere lo stronzo che svuota gli acquari? Hai 16, 17 anni, a quell'età cosa fai? Fai quel che devi fare se tua madre ti butta giù dal letto alle 11 di mattina urlandoti di trovarti un cazzo di lavoro. Noel Gallagher è la mente dietro alla quale si celano quasi tutte le canzoni degli Oasis, che con tutta probabilità sono la band britannica più universalmente acclamata degli ultimi 20 anni. Noel non rispecchia affatto il cliché del musicista. Non è stato un bambino prodigio, non ha passato le ore più dolci dell'infanzia chino sugli spartiti o seduto accanto al pianoforte di casa sotto la severa supervisione di un insegnante di solfeggio. A casa Gallagher non c'è mai stato un pianoforte. Parlando di Newell, non si può parlare di vocazione né tantomeno di tenacia nel raggiungere un obiettivo. Fare il musicista non era il suo sogno, almeno tanto quanto non lo era quello di svuotare gli acquari o attaccare manifesti in giro per le strade. Newell non appartiene alla schiera di fortunati che sapevano fin da piccoli cosa volevano dalla vita. Di certo però ha sempre saputo cosa non voleva. Non voleva andare a scuola, tanto per cominciare. Ma gli insegnanti non sono mai tanto piaciuto, diciamocelo. Non è che mi odiassero apertamente, però incolpavano me sempre, per qualsiasi cosa succedesse. Ero sempre, sempre nell'ufficio del preside. Se in quella scuola qualcosa andava storta, loro pensavano sempre che ci fossi io di mezzo, in qualche modo. Non sto mica dicendo che mi accusavano ingiustamente. Io ero sempre coinvolto nelle cose che andavano storte, in qualche modo. In una scuola media di Manchester, un mattino di un giorno qualunque, c'è un ragazzino di 15 anni che viene trascinato per un orecchio lungo un corridoio che sembra infinito. I suoi occhi azzurri, vispi, tradiscono un'aria vagamente divertita, nonostante la situazione. Il preside lo squadra da capo a piedi, conosce bene quella faccia e quell'espressione, la conosce fin troppo bene. Ma stavolta non è come le altre volte. Stavolta Noel Thomas David Gallagher l'ha fatta grossa. Ha tirato un pacco di farina in testa un insegnante. Non so dire se sono stato proprio io a tirarlo. E non è che non sto confessando perché il mio avvocato non è presente a questa intervista. Dico sul serio, non ricordo se sono stato io a tirare. Quel che ricordo molto bene invece è che appena dopo ero uno di quelli che stavano lì a pisciarsi addosso dal ridere. Può anche darsi che non sia stato proprio Newell a scagliare la pietra incriminata, ma non ci sono dubbi sul fatto che lui sia stato uno degli entusiasti organizzatori della bravata. Il verdetto del corpo docente è unanime e severo. Newell viene espulso dalla scuola. A lui non importa molto, quel posto non gli mancherà. Finché era costretto ad andarci non faceva altro che architettare modi ingegnosi per saltare le lezioni ed era diventato piuttosto bravo, specialmente se si tiene conto del fatto che sua madre lavorava nella mensa. Noel riemergeva dal suo girovagare giusto in tempo per farsi vedere da lei e poi spariva di nuovo. Evidentemente una qualche forma di vocazione artistica non gli è mai mancata. Noel, insomma, è un ragazzino problematico. Non deve essere facile crescere nella sua realtà, quella della Manchester operaia degli anni 70 e 80, che assiste all'avvento del thatcherismo. Per quel che mi ricordo io, negli anni 70 a Manchester era sempre inverno. La comunità irlandese se ne stava tutta ingrigita e chiusa in se stessa per via dei bombardamenti dell'AIRA a Manchester e Birmingham. E poi c'erano gli scioperi continui degli operai e... insomma, erano tempi di violenza. Violenza per le strade, violenza in casa, violenza alle partite di calcio. Violenza in casa, soprattutto. Il padre di Newell si preoccupa di non farla mai mancare alla tavola della famiglia Gallagher. Newell e i fratelli Paul e Liam vengono picchiati spesso e volentieri dal genitore frustrato e ubriaco, abituato a riempire di birra il vuoto di un'esistenza fatta di lavori saltuari e altrettanto saltuari stipendi gettati via in scommesse. Una vita insostenibile, al punto che la madre, dopo diversi anni fatti di duri silenzi e indicibili sofferenze, abbandona il marito trascinando i figli via con sé. È comunque troppo tardi per regalare loro un'infanzia felice. Noel e Paul sviluppano una balbuzia da stress. Liam è un ragazzino magro e spaurito. Dovranno pur trovare conforto in qualcosa, questi poveri ragazzi. La musica era una via di fuga per me. Ma per nessun motivo avrei mai pensato che sarei diventato una star, un giorno o l'altro. Le star non venivano certo dallo stesso posto da cui venivo io. Venivano sfornate nei forni della BBC o che ne so, ma di sicuro non venivano da Manchester. La musica mi permetteva di fuggire. I 3 minuti di una canzone mi bastavano per trasportarmi in un posto diverso dalla gelida Inghilterra di metà novembre, per dire. Sembra che Newell abbia trovato qualcosa che lo appassiona veramente. È ancora presto per dirlo, ma pare che almeno nella vita di uno scalmanato teenager di Manchester ci sia spazio per qualcosa di diverso dai furti di autoradio e dall'ozio al pub. Forse anche per lui, dopo tutto, c'è una possibilità. Meglio dedicarsi alla musica piuttosto che compiere furtarelli quella. Newell è stato beccato a rubare al negozio sotto casa. Poca roba, questione di spiccioli, ma gli toccano comunque 6 mesi di libertà vigilata. È ancora minorenne e questa è la punizione che gli viene inflitta. Inizia, tra le altre cose, a farsi vedere in giro coi tifosi della sua squadra del cuore, il Manchester City. Quei tizi non sono nient'altro che hooligans, idioti e violenti. Meglio che se ne stia chiuso in casa per un po'. Sua madre si occuperà personalmente di controllare che non faccia altre bravate. La quarantena gli farà bene, avrà tempo per riflettere sui suoi errori e per fare anche dell'altro. Ho iniziato a suonare la chitarra perché c'era una chitarra in casa nostra, dietro la porta d'ingresso. Ancora oggi nessuno sa spiegarsi che cosa ci facesse lì, perché nessuno sapeva suonare la chitarra in casa mia, a meno che mia madre non avesse in segreto una band tutta sua. E io ero spesso in punizione e non potevo uscire di casa per i soliti motivi, o perché non ero andato a scuola, o perché avevo rubato qualcosa. Quindi insomma, mi mettevo lì e a furia di provarci ho imparato un po' a suonare le canzoni dei Joy Division. La prima canzone intera che ho suonato però è stata The House of the Rising Sun. Con lentezza, ma con costanza, Noel impara a strimpellare su quella chitarra misteriosamente ritrovata in casa, abbandonando l'idea immancabile per un giovane cresciuto a Manchester di diventare un giorno un calciatore famoso. Non che ci avesse mai davvero creduto, ad essere sinceri. Non è mai stato nemmeno troppo forte, non proprio un brocco, ma neanche un asso. Meglio concentrarsi su altro. Per la musica, oltretutto, sembra essere decisamente portato. Chi l'avrebbe mai detto? Di certo non sua madre, imprigionata nel disperato tentativo di non crescere un figlio delinquente. La musica è sempre piaciuta a Newell, da ben prima di iniziare a praticarla. I Beatles, in un modo o nell'altro, erano dentro i suoi cromosomi, forse per la vicinanza delle rispettive città natali. Dopotutto, Liverpool e Manchester distano solo una cinquantina di chilometri. I Beatles sono sempre stati lì. Capito cosa intendo? Se in un'intervista mi chiedessero quando è la prima volta che ho sentito i Beatles, risponderei: quando è la prima volta che chiunque ha sentito i Beatles? Come si fa a rispondere? Sono sempre stati lì. I Beatles sono una radice importante per Newell, ma lo è anche Top of the Pops, celebre programma televisivo nato nel 1964 sulla BBC e destinato a ospitare tutti i più celebri musicisti dei 50 anni a seguire. È una trasmissione che tutti i giovani inglesi aspettano con ansia ogni settimana, e Newell, in questo, non è affatto diverso dai suoi coetanei. Top of the Pops gli fa compagnia per l'intera durata degli anni 70, dandogli la possibilità di spaziare dai brani sofisticati di David Bowie fino all'avvento dei Sex Pistols, che nel 1977 furono ospiti di Top of the Pops per la prima ed ultima volta con il singolo Pretty Vacant. A Newell piacciono quegli sbruffoni dei Sex Pistols. Forse non tanto per la musica che fanno, ma per il semplice fatto che la fanno. Poi i suoi gusti musicali si fanno via via più sofisticati. I New Order e gli Smiths entrano a far parte del suo corredo musicale. E non si tratta di due band qualsiasi, ma di due band che si sono formate proprio a Manchester. Allora, non è vero che se sei di Manchester sei condannato a fare l'operaio in fabbrica e a ubriacarti ogni venerdì sera che Dio manda in terra. Allora, una speranza di riscatto c'è come? Quando poi a Newell capita di sentire un altro gruppo, il loro sound, le loro chitarre, quello è il momento in cui capisce, senza ombra di dubbio, di voler davvero fare musica nella vita. Ma la prima band in assoluto che ho visto e che mi ha fatto pensare davvero di voler fare il musicista, sono stati gli Stone Roses. Gli Stone Roses non si limitano a far capire a Newell che la musica sarà il suo futuro. Sono anche la band che indirettamente lo mette sulla strada giusta. È una sera di maggio a Manchester. Per una volta non sembra nemmeno inverno. Non è poi tutto così grigio. Forse sarà che Newell stasera è contento. Ha 20 anni e tutto il futuro davanti a sé. Da quando ha scoperto la musica, poi, gli sembra di essere meno oppresso dal fardello della sua infanzia, dal peso della periferia degradata in cui è cresciuto e di cui temeva di restare prigioniero. Cammina spedito. C'è un evento che lo aspetta ed è ansioso di arrivarci. Sta andando ad un concerto. È l'unico tra i suoi coetanei che è disposto a sprecare del tempo libero per qualcosa di diverso dai motori, dal pallone o dalla birra. Si sente un outsider, e lo è, di fatto. Quella sera Manchester suona la sua band preferita, gli Stone Roses. Non se li perderebbe per niente al mondo. Ero a questo concerto degli Stone Roses e ho notato che c'era un tizio sugli spalti del locale con un Walkman e stava registrando. Stava facendo un bootleg. A quell'epoca non era ancora uscito il primo disco degli Stone Roses. E insomma, mi sarebbe piaciuto avere la registrazione di quel concerto, sai com'è? Comunque, siamo finiti a parlare e viene fuori che lui è un chitarrista e mi chiede quali sono le band che mi piacciono. E io inizio l'elenco dicendogli: mi piacciono gli In Spiral Carpets. Lui era il chitarrista degli Spiral Carpets. Ecco un magnifico incontro del destino. Graham Lambert, chitarrista per passione e per professione, incontra un suo fan a un concerto degli Stone Roses. Quel fan è un giovane Newell Gallagher e il meglio deve ancora succedere. Non solo il destino ha appena fatto sì che Newell incontrasse Graham Lambert, il chitarrista di una delle sue band preferite, ma si spinge ancora un po' più in là. Lambert, così su due piedi, fa a Newell una proposta che lui di certo non si aspetta. una proposta che lascia Gallagher di stucco e cambia d'improvviso ogni sua più rosea prospettiva. Quindi insomma mi dice che il cantante della sua band se ne sta andando e mi chiede se voglio fare un'audizione per sostituirlo, visto che conosco le canzoni. E io gli dico di sì, wow, stupendo. Ma io non sapevo mica cantare, ho imparato tipo l'anno scorso. Quindi non mi hanno preso come cantante, ma mi hanno ingaggiato come roadie. Ed è così che è iniziato tutto. La grande occasione di Noel Gallagher arriva grazie a un incontro fortuito in un locale di Manchester. Ma Noel, per sua stessa ammissione, non è poi così tanto bravo a cantare. Quella sera si chiude una porta, ma si riapre immediatamente una finestra. Può darsi che Noel non sia pronto per fare il cantante degli Spiral Carpets, ma è certamente pronto per accompagnarli in tour come roadie, ovvero come tecnico tuttofare che supporta il lavoro dei gruppi durante le tournée. Avrà modo di imparare moltissimo su come funziona il mondo della musica, visto dalla prospettiva di chi ci sta dentro, di chi ci vive e ci lavora. In un ambiente del genere, poi, non è certo difficile continuare a coltivare la passione per la musica. Noel di certo non immagina che a casa, a Manchester, c'è qualcun altro che ha scoperto di avere quella stessa passione. Eravamo in giro in tour per l'Europa. Eravamo a Monaco, per la precisione. E una sera ho telefonato a casa, lo facevo tutte le settimane. Ho chiesto a mia mamma come andavano le cose in generale e ho chiesto anche come stava Liam. Probabilmente era la prima volta in vita mia che le chiedevo come stava Liam. E lei mi risponde, sta bene, è fuori che fa le prove. E io ho pensato, cosa? Sta provando per cosa? E lei è andata avanti. Sai, è in una band ed è il cantante. E io ho iniziato a ridere come un pazzo, non ci potevo credere. Dopo tutti gli anni passati con lui nella stessa stanza, io che suonavo la chitarra e lui che non faceva altro che rompermi i coglioni tutto il tempo, ora era il cantante di una band. Roba da matti. Noel resta quasi stordito di fronte all'iniziativa di suo fratello più piccolo e non vede l'ora di scoprire di cosa si tratta. Poi sono tornato a Manchester e c'era un loro concerto. E ci sono andato. E ho pensato che avessero qualcosa di speciale, erano bravi. E Liam sul palco mi ha colpito moltissimo. Era carismatico. Noel non crede ai suoi occhi. Suo fratello Liam, quando sale su un palco, non sembra nemmeno più lui. Si trasforma. Smette di essere lo scricciolo che lui ha sempre visto seduto sul lettino della loro stanza, magro come un chiodo, con la faccia sempre un po' contrariata. Se per questo ha l'aria vagamente contrariata anche sul palco, ma canta. E come se canta. Tira fuori tutta la rabbia che ha in corpo e lo fa con stile. Una vera folgorazione. D'ora in avanti niente sarà più come prima per i fratelli Gallagher. I magnifici destini. Noel Gallagher ha appena scoperto che suo fratello Liam suona in una band, i Rain. È andato a sentirli e ha anche scoperto che sono bravi oltretutto. Non aveva certo idea del fatto che Liam si fosse appassionato da un giorno all'altro alla musica. Dopotutto era lui, quello della famiglia, ad avere deciso di intraprendere quella strada. Ma non era il solo, evidentemente. All'inizio mi hanno chiesto di essere il loro manager. A me non me ne fregava un cazzo di fare il manager. Ho iniziato ad andare alle loro prove ed un giorno è successo che ho cominciato a suonare insieme a loro. Il resto è storia. Neil, dopo 2 anni di lavoro come roadie tuttofare della crew degli Spiral Carpets, entra a far parte dei Rain, la band del fratello Liam. Non arriva certo con le mani in mano. Mentre andava in giro in tour per il mondo con gli Spiral Carpets, ha iniziato a scrivere canzoni e le regala immediatamente alla sua nuova band. Quei pezzi, già un primo ascolto, non sono per niente male. Quello che invece non funziona, almeno a detta di Noel, è il nome del gruppo. Rain non sa di niente, è triste, incolore, almeno quanto i sobborghi di Manchester, in cui lui e Liam sono cresciuti, quella tetra periferia da cui non vedono l'ora di scappare. Rain proprio non funziona. Serve qualcosa di più ispirato e ispirante, qualcosa che dia l'idea di una rinascita o di un'entità nuova, di un luogo fisico o metaforico, non importa, dove spogliarsi del già sentito e aprirsi alla novità. Un posto diverso dal quotidiano, che poi è un po' quello che ha sempre rappresentato la musica per Newell. Un rifugio, uno spazio in cui ci si libera da tutto il resto, anche solo per il tempo di una canzone. Un'oasi, insomma. Oasis. Oasis. Noel ha scelto il nome degli Oasis e ci ha messo le canzoni. Questo basta a farne il leader morale e spirituale, anche se la percezione del pubblico di norma è quella che il leader sia colui che ci mette la faccia e soprattutto la voce. Eppure Newell, benché sul palco appaia più defilato rispetto al fratello Liam, è la mente dietro cui si celano tutte le melodie e le parole della band. Persino lui è stupito di aver assunto così in fretta un ruolo tanto importante. E poi all'improvviso mi sono trasformato in Paul McCartney. E ho incominciato a dare ordine a chiunque, tu fai questo, tu fai quello, tu suoni così mentre io suono cos'ha, eccetera, eccetera. Sentire le sue canzoni suonate da qualcun altro lo riempie di orgoglio e di felicità. Ha passato anni a sentirsi dire di essere un buon a nulla e questa è decisamente una bella rivincita. Non è una cosa decisa a tavolino. Newell non si è imposto sugli altri membri del gruppo stabilendo di essere l'unico autore dei pezzi. È successo, semplicemente. Ed è un bene per tutti, vista la qualità dei brani che finiranno poi per confluire nel primo disco degli Oasis, Definitely Maybe. Ma per pubblicare un disco prima ci vuole un contratto discografico e quello ancora gli Oasis non ce l'hanno. Anche qui serve un incontro, anche qui ci vuole l'intervento di un magnifico, sorprendente destino. Un'altra sera di maggio, un altro concerto verso il quale dirigersi. Newell stavolta non va in giro a piedi da solo camminando spedito verso uno show degli Stone Roses. Questa sera è su un furgone insieme alla sua band, gli Oasis. Stanno sfrecciando verso Glasgow, 6 ore di macchina che possono valere un'intera carriera. Al King's Tut's, quella sera, ci sarà un tale di nome Alan McGee, un talent scout che sperano sentirà i loro pezzi. Ma il destino sembra mettere i bastoni fra le ruote di quel furgone preso a noleggio per l'occasione. Quando siamo arrivati a Glasgow abbiamo scoperto che quelli del locale non avevano la licenza per far suonare 3 band ma solo 2. O qualcosa del genere. C'era un intoppo insomma e noi eravamo arrivati fin lì da Manchester. La leggenda racconta che siamo entrati nell'ufficio del promoter, abbiamo chiuso la porta alle nostre spalle e gli abbiamo detto: senti bello, ti radiamo al suolo il locale se non ci lasci suonare. Ma non è proprio andata così, non c'è mica da scherzare con la gente di Glasgow. La verità è che ce ne siamo usciti con un: ehi dai, siamo venuti fin qui da Manchester, facci suonare. E lui ha detto che sì, potevamo suonare, ma solo 20 minuti prima della band principale. E siamo stati fortunati perché Alan McGee quella sera è arrivato un po' in anticipo. Noel, Liam e i compagni arrivano a implorare i gestori del locale perché lasciano loro la possibilità di suonare. Non possono certo farsi sfuggire l'opportunità di passare sotto il radar di McGee, già famoso nell'ambiente per il suo fiuto. Good evening. Alan McGee. Buonasera. Alan McGee è stato definito da molti il messia del rock and roll. È l'uomo che ha scoperto gli Oasis e possiede le orecchie più invidiate del mondo del pop. È a capo della Creation Records e, oggi come oggi, tutte le giovani band sperano che lui si accorga di loro e che le lanci come la next big thing. Se già McGee era considerato un fine intenditore, è dopo la scoperta degli Oasis che diventa un vero e proprio mito del settore. In effetti, gli basta ascoltarli per pochi minuti quella sera al King's Tut's di Glasgow per rendersi conto che gli Oasis sono molto più della solita band raffazzonata in cerca di successo, composta da una manciata di ragazzi che probabilmente finiranno per smettere di cercarlo, quel successo, per trovarsi piuttosto un lavoro vero. Abbiamo suonato per 20 minuti e poi mi ricordo di essere sceso dal palco. Gli altri erano ancora lì a suonare, stavano facendo una cover di I Am The Walrus dei Beatles. E io intanto camminavo allontanandomi dal palco e mi sono praticamente scontrato con Alan McGee, che mi ha chiesto quale fosse il nome della mia band. Oasis, gli ho risposto. Allora mi fa: ce l'avete un contratto discografico? No. Ne volete uno? Sì. E niente, era fatta. Alan McGee non perde nemmeno un minuto e mette subito sotto contratto i 4 di Manchester. Un anno più tardi, nel maggio del 1994, esce Definitely Maybe, il loro album di debutto. Un disco pronto a sconvolgere le loro vite e quelle di molti altri giovani, inglesi e non. Definitely Maybe debutta al numero 1 della classifica britannica dei dischi più venduti. Vende una quantità spropositata di copie e lo fa con una velocità impressionante. Gli Oasis iniziano immediatamente un tour negli Stati Uniti, durante il quale Noel e Liam mostrano già i primi segni di una tensione reciproca. Ma la voglia di fare musica è così travolgente da fare sì che i due fratelli passino sopra qualunque screzio. Beh, non sono entrata in una band finché non ho avuto 24 anni e ho firmato il mio primo contratto discografico a 27. Di norma le rockstar muoiono a 27, no? Io iniziavo. Altro che Club 27. Newell a quell'età non ha nessuna intenzione di morire per poi venire ricordato dai posteri come una rockstar maledetta. Lui vuole vivere, suonare, scrivere canzoni. Fino a una manciata di anni prima non sapeva cosa sarebbe stato della sua vita. Ora ci ha preso gusto e non riesce a smettere di comporre nuovi brani per gli Oasis. Il secondo disco esce un anno dopo quello di debutto, nel 1995. What's the Story, Morning Glory, li tramuterà da fenomeno indie per palati fini a vere e proprie rockstar planetarie. Essere delle rockstar universalmente acclamate, si sa, può dare alla testa. Beh, non è che io sia improvvisamente diventato uno stronzo. Però ho iniziato a vestirmi come uno stronzo. Avevo sempre gli occhiali da sole e mettevo la pelliccia, sai com'è. Credevo che questa fosse la procedura standard se volevi far parte della più grossa band sulla faccia della Terra. Vestirsi come degli stronzi. Però non sono diventato uno stronzo, io quello no. Noel e il fratello Liam diventano un duo celebre non solo per le pettinature a scodella simil Beatles e per l'abilità nello sfornare e cantare canzoni, ma anche per il loro stile di vita decisamente sopra le righe a base di sesso, droga e rock and roll, a cui vanno aggiunte dosi massicce di alcol, litigi fra parenti e litigi con la stampa. Noel oltretutto si fa subito riconoscere dai giornalisti per quella che diventerà la sua proverbiale antipatia nei confronti dei colleghi musicisti. D'altronde gli Oasis sono la miglior band al mondo, o no? Tutto il resto è trascurabile. Non è che se vendi un botto di dischi allora vuol dire necessariamente che sei bravo in quello che fai. Guarda Phil Collins, per esempio. I magnifici destini. Gli Oasis, verso la fine degli anni 90, sono delle star planetarie. Autore di tutte le loro canzoni è Noel Gallagher, burbero e arguto ragazzo di Manchester, che si spartisce la scena col fratello Liam, che degli Oasis è il cantante dall'inconfondibile piglio sbruffone. Vendono milioni di dischi e conducono una vita sopra le righe. Questo significa essere delle rock star. Io ho sempre creduto molto nel nostro gruppo. Non ho mai nutrito alcun dubbio in proposito. Ho sempre saputo che le canzoni che scrivevo erano buone. Il terzo album della band, Be Here Now, esce nel 1997 e non fa gridare tutti al miracolo come avevano fatto i primi due lavori. La tensione fra Noel e il fratello Liam è altissima. Durante le sessioni di registrazione del disco, Noel si lamenta continuamente delle caratteristiche vocali di Liam, mentre quest'ultimo, troppo spesso, si rifiuta di cantare le canzoni scritte dal fratello. Poi, immancabili, iniziano anche ad arrivare le prime recriminazioni nei confronti di Noel. I brani li scrive tutti lui, è quello che fa più soldi, è quello che approfitta del lavoro altrui. Lui di certo non la vede in questo modo. Non mi sono mai sognato di dire a qualcuno che non era autorizzato a scrivere canzoni. Semplicemente a nessuno a parte me è mai interessato farlo, fin quando non si sono svegliati ed improvvisamente gli è interessato. Mi avrebbero fatto un favore se avessero scritto qualche canzone anche loro. Probabilmente il terzo album non sarebbe stato una merda. Noel non solo scrive tutte le canzoni, ma progressivamente inizia a coltivare l'idea di cantarle. Gli era già capitato in effetti di usare la sua stessa voce per gli svariati B-side ed eccezionalmente anche per qualche singolo. E non si può certo dire che non ci prenda gusto. Slip your shoes on and then out you crawl into a day that couldn't give you more. But what for? Nel frattempo gli Oasis vivono una rivoluzione. Mentre i fratelli Gallagher restano al loro posto, nonostante i litigi sempre più feroci e frequenti, il batterista e il secondo chitarrista lasciano la band. Serve un rimpiazzo, il più in fretta possibile. In un mattino che ha tutta l'aria di essere un mattino qualunque, c'è un ragazzo che sta guardando The Big Breakfast, popolarissimo show in onda sul canale inglese Channel 4. Una notizia lo lascia di stucco proprio mentre addenta una fetta di pane tostato che gli va quasi di traverso. Bonehead, il chitarrista degli Oasis, ha lasciato la band. Merda, ho pensato, adesso si sciolgono. Io ero un loro fan. E non lo dico mica perché adesso le cose sono andate così. Per me gli Oasis hanno davvero ridato vita al rock and roll. Jim Archer, così si chiama quel ragazzo, ancora non sa che Noel Gallagher si è informato sul suo conto. Sa che è un bravo chitarrista e per questo lo invita ad assistere all'incisione del quarto album della band, Standing on the Shoulders of Giants. Noel non ha nemmeno bisogno di sentirlo, ha già deciso. Lui è quello giusto. È così che il magnifico destino di Archer si compone intrecciandosi a quello di Gallagher. È lui, d'un tratto, il nuovo chitarrista degli Oasis. Formalmente è solo un rhythm guitarist, ma nella realtà è molto più di questo. È il collante che tiene insieme la band nel suo secondo decennio di vita, quello più difficile, quello in cui i litigi fra i due fratelli Gallagher si fanno via via sempre più insostenibili. Liam è scorbutico, arrogante, violento e pigro. È l'uomo più rabbioso che ci sia sulla faccia della terra. È come un tizio con in mano una forchetta in un mondo dove si mangiano solo minestre. Tra il 2000 e il 2009, i rapporti tra Liam e Noel si deteriorano fino alla resa dei conti finale. Nell'agosto 2009, dopo uno scontro furibondo che include un tentato lancio di chitarra di Liam in testa a Noel, quest'ultimo lascia definitivamente la band, che di fatto cessa di esistere. Sono stati anni difficili gli ultimi. Il successo che li aveva travolti negli anni 90 li ha tenuti a galla nonostante la qualità degli album non fosse quasi mai all'altezza dei primi due lavori. Certo, l'arrivo di Jim Archer ha dato un'iniezione di linfa alla band e Newell è sempre un autore eccezionale, ma manca l'alchimia, quella dei primi tempi. Ho pensato che avevamo fatto tutto, ma proprio tutto quello che c'era da fare. Sono passato da una sala prove merdosa di Manchester fino a questo hotel di lusso. Sono stato col culo per terra e poi sono arrivato più in alto di tutti. Mi hanno ricoperto di soldi. Mi sono comprato una specie di castello in campagna. Praticamente non mi restava altro da fare che comprare un aereo e distruggerlo facendolo cadere dentro un lago. Forse è ora di cambiare aria. Newell fonda i Newell Gallagher's High Flying Birds e con loro continua a fare musica. Non sarà certo un litigio col fratello a fermarlo. D'altronde, scrivere canzoni è l'unica cosa che sappia fare nella vita, anche se lo spirito con cui lo fa è decisamente cambiato rispetto agli inizi della sua carriera. Senti un po', ho più di 40 anni e due bambini piccoli. Non mi aspetto mica che un ragazzino di 16 anni adesso guardi me in cerca di ispirazione. Adesso queste cose toccano ad altra gente, che ne so, agli Arctic Monkeys. Io la mia parte l'ho fatta. Adesso lo spirito è diverso. Vado in studio e faccio dei dischi, perché è quel che amo fare. Punto. I Noel Gallagher's High Flying Birds hanno riempito gli stadi e i festival di tutto il mondo, riscuotendo molti più apprezzamenti della nuova band del fratello Liam, i Bad Eye, che praticamente sono gli Oasis privati del talento e dell'intuito di Noel. Tutto un'altra cosa, insomma. Ma si sa, il cuore di un fan non cessa mai di battere. Chissà se sugli Oasis non sia ancora stata scritta l'ultima parola.